Buonasera a tutti. Come sempre, quando si parla di Iran è molto difficile, però noi ci teniamo molto e abbiamo fatto questa serata, dopo aver fatto un documento sull'Iran, una guerra reazionaria che potete trovare lì dietro, e aver preparato anche l'altro materiale sull'Iran che poi dirò. Good evening, everyone. Well, as always, it is always very hard to talk about Iran, but we do care about it. So this is why we organized this meeting this evening, and we also printed a document entitled "The Reactionary War, Iran." È bilingue questa sera perché abbiamo in collegamento alla Lata Eri da Londra, che è del Comitato Centrale del Partito Comunista Operaio d'Iran. Lei è stata una combattente della rivoluzione iraniana del 1979 in Kurdistan. Dopo vari anni di combattimento ha perso 10 familiari ammazzati dal regime. È dovuta poi scappare e andare prima in Iraq, poi in Turchia, poi in Svezia e attualmente in Inghilterra, dove anche dirige un'organizzazione, MEUSO, di aiuto alle donne di origine medio orientale immigrate in Inghilterra. So this evening is going to be bilingual because Halale Tahiri is connected with us, is online with us. She is a member of the Communist Party of Iran, so she fought in the 1979 revolution in Kurdistan, and during the revolution she lost 10 members of her family. She had to flee first to Iraq, then to Turkey, then to Sweden, and finally she arrived in the UK, where she's also part of the MEUSO organization to support Middle Eastern migrant women. Allora, sono arrivati anche i compagni Together for Iran. Inizio con una brevissima introduzione per capirci. Come abbiamo scritto, potete vederlo meglio di questo, non ne parleremo molto se non nel dibattito. In Iran è in corso una guerra reazionaria. Una guerra reazionaria che va avversata, che va combattuta, anche per la complicità italiana e occidentale. Perché al di là di tutti i mal di pancia, l'Italia è compartecipe armando i paesi del Golfo e non facendo nulla di reale per bloccare questa guerra. So our comrades from Together for Iran have arrived. So I'll just be giving a brief introduction, and then there will be a debate. So this is going to be very brief. So what is happening in Iran is, in Iran at the moment, there is a reactionary war that has to be opposed, against which we have to fight. Also because Italy is an accomplice in this war. Italy is providing arms, supplying arms, and so this amounts to no real action against the war. È una guerra che anche contro i rivoltosi iraniani delle rivolte del 2025, inizio 2026 e delle rivolte precedenti, perché in realtà nessuno si rivolta più quando ti bombardano, quando ti lanciano missili, devi pensare a sopravvivere, a salvarti. Al massimo può essere un aiuto a iniziative che ci possono essere dallo Shah e dalle forze legate allo Shah o dal settore dei Pasdaran, che sono comunque contro i rivoltosi iraniani, contro il proletariato iraniano. The war that is currently ongoing in Iran is also against the people who have been rebelling since 2025 and have been rebelling also at the beginning of 2026. But also, it's a war against the previous rebellions. During a war, actually, no one can revolt. No one can be a rebel. It's very hard. People have to survive. So some people rebel, they are on the side of the Shah and the Pastaran. So actually they are against the proletarians and the people who have rebelled so far. Qui in Italia, ma non solo, l'ideologia dominante, ma anche la sinistra, istituzionale e non istituzionale, hanno cancellato la storia degli iraniani, la storia della lotta di classe. Sembrerebbe che ci sia stata finora solamente una battaglia esclusivamente per i diritti individuali, per ottenere una libertà democratico-parlamentare di tipo borghese, e non ci sia stata invece dal 1979 in poi una lotta generale molto più grande, molto più complessa, di un paese che è compiutamente capitalista, che ha 90 milioni di abitanti. Here in Italy, the predominant ideology, so in the left, in the institutional left, but also in the non-institutional left, has apparently completely erased class struggle, the class struggle that is going on in Iran, as if the struggle was only just about individual rights, okay, within a democratic and parliamentary context, a bourgeois context. So as if there had been no bigger struggle going on since 1979 in a country that is fully developed as a capitalist country and has 90 million inhabitants. Oggi ancora non si vuole far conoscere, emergere, che ci sono degli iraniani che sono contro la Repubblica Islamica, contro la guerra, contro l'ipotesi dello Shah, e che vanno in un altro senso. Faccio un solo esempio, molto vicino, qui di Milano. Together for Iran organizza due presidi contro la guerra e contro la situazione complessiva. Cosa avviene? Su ordine, presumiamo, alto da Roma del governo, il presidio viene prima autorizzato, poi a poche ore dall'inizio del presidio, un paio d'ore, gli si dice lo dovete spostare da un'altra parte, una parte dove non passa nessuno, non è più un centro. Cioè è successo due volte, in questo senso, è un messaggio chiaro di quello che non si vuole far vedere, però si dà subito spazio ai sostenitori dello Shah. E poi dobbiamo dire che noi come sinistra italiana almeno siamo estremamente carenti a queste iniziative che loro hanno fatto, la partecipazione era bassissima se non nulla. So here for example we have comrades from Together for Iran, and they have organized two rallies against the war and against what is going on in Iran. But there's here there is very little intention to really make visible what is going on in Iran. There is a lot of visibility for other initiatives, but what is going on against the Republic, against the war, and against the Shah is not visible. So what happens with these rallies? These rallies were authorized by the government in Rome, but then 2 hours before the rally starts, well, there is an order that comes and says, well, you have to move from here. And the rally is moved to another place in the city where there's very little people. So the intention is really not to make people know what is really going on in Iran, and conversely there's a lot of space for the supporters of the Shah. And also within the left there are really very few people who attend meetings on Iran, very little participation. Per comprendere quanto sta avvenendo e avvenuto e per capire perché dobbiamo sostenere i rivoltosi iraniani, vado velocissimamente, se non prendo tempo, a quello che è avvenuto fino dal 1979, ma andando giù a tranciando. Nel 1979 in Iran non c'è stata una rivoluzione islamica. Questa è la ricostruzione fatta dai media e dagli interessi occidentali. Very brief, but we have to understand what is happening now in Iran and why we have support. We have to support the struggles in Iran. So what happened in Iran? What has happened in Iran since 1979? I'll be summarizing this very rapidly. So in Iran, in 1979, there was no Islamic revolution. This is a reconstruction which has been, provided by the media. Nel 1979 in Iran si arriva dopo anni di lotte operaie e lotte sociali. Vengono costituiti i consigli operai. Questi consigli addirittura si armano. Nel corso poi dello sviluppo della lotta e di quello che avviene, Khomeini è aiutato a ritornare, lo Shah è aiutato ad andarsene, e nel corso del periodo dei tre anni successivi viene schiacciata la rivoluzione, che era, non dico una rivoluzione comunista, ma il proletariato, le masse povere iraniane avevano cacciato lo Shah e avevano iniziato a prendere delle misure. Ne ricordo una sola. Stesso lavoro per uomo e donna, stessa paga e stessi diritti, cosa poi eliminata dalla legislazione del lavoro islamica. Oppure costituzione dei consigli operai in tutto il paese, eliminazione con le cosiddette case operaie controllate dallo Stato. In 1979 in Iran comes after years of struggles by workers and by society more in general. So there were workers' councils and they were armed. And over the years of the revolution, Khomeini was helped to return. And the Shah was, in a way, invited to go, helped to go. But what happened in the 3 years after 79 is that the revolution was crushed. Well, we can't say it was a communist revolution, but there had been some action that had been taken. So, for example, the Shah, of course, was sent away from Iran, and then there were some measures taken by workers. For example, same pay and same rights for both male and female workers. And then workers' councils were also established, and all this was crushed. In quel periodo, il governo della Repubblica Islamica, il Partito della Repubblica Islamica, è appoggiato dal Partito Costituzionale di Bani Sadr, è appoggiato dai Mujahideen del popolo iraniano e sarà appoggiato dal cosiddetto Partito Comunista, il Tudeh, di osservanza sovietica di allora, con la scusa che la Repubblica Islamica era oggettivamente antiimperialista contro gli americani, effettivamente in contraddizione con gli americani. Qui in Italia ci fu lotta continua, che ci impestò con tutte le storie sulla rivoluzione senza Marx e così via. In realtà in quel periodo piano piano viene schiacciato tutto e il punto di svolta è l'inizio della guerra Iraq-Iran, su procura e per interesse dell'imperialismo occidentale e dei paesi del Golfo. Saddam Hussein attacca l'Iran e questo viene usato per una repressione interna violentissima. Voglio dire i nomi dei partiti. So in that period, the government and the Islamic Revolution were also supported by the Communist Party, yes, today, and by the Mujahideen, okay, and there was another part, and by Bani Sadr. But that was just an excuse. I mean, the Islamic Republic but to make the Islamic Republic appear as anti-imperialist and against the US. Well, in a sense, it was against the US, and even here in Italy, some people thought that it was against the US. For example, the party Lotta Continua was very adamant in voicing their slogan, Revolution Without Marx, but the truth is that the revolution was crushed, and the turning point in this context was the war between Iraq and Iran. That was a war by proxy, by Western powers, plus together with the countries of the Persian Gulf. And it was a war when Saddam attacked Iran, and the revolution was permanently crushed. In questo modo e con questi avvenimenti la rivoluzione viene schiacciata. Io mi ricordo che allora più di 10.000 militanti di sinistra vengono ammazzati nelle carceri iraniane. 10.000, dico, è il numero più o meno ufficiale. Da allora è stato posto questa ricostruzione che sia stata solo una rivoluzione islamica. In realtà per tutto questo periodo che sono stati al potere, rivolte, agitazioni, tentativi di costruzione, sindacati indipendenti, partiti, sono la storia dell'Iran che non può essere nascosta, non può essere negata. Altrimenti, che genere di futuro hanno gli iraniani? Solo quello di essere usati nel gioco strategico di appoggiare la Repubblica Islamica in funzione anti-americana, di non avere la possibilità di opporsi, mentre in un capitalismo per quanto minore il disfattismo vale. I rivoltosi iraniani non devono appoggiare nella guerra contro gli Stati Uniti, contro Israele, devono combattere questa guerra, ma devono muoversi per la loro liberazione, per abbattere la Repubblica Islamica. In this war, in these events, so the revolution was crushed. I remember, for example, that 10,000 militants from the Iranian left were killed in prison. Since then, the only narrative about the revolution is that of an Islamic revolution. But in fact, during those years, there were many other things going on, revolts and the organization of independent trade unions. And all this cannot be denied. It cannot be erased from the history of Iran. And on the one side, the Iranian population is being used strategically by the Islamic Republic against the U.S., while defeatism is in fact an option, because Iranian people have to fight against the war, against the reactionary war waged by the US and Israel, but also against the Islamic Republic. Nelle lotte ultime, da quelle di Donna Vita Libertà a quelle dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, tutto si è intrecciato. Si sono intrecciate la richiesta di diritti individuali, richieste politiche più generali, anche di consigli operai. C'è il caso dei consigli operai di Iraq rivendicati, che si sono mossi in questo senso, e le rivendicazioni, ad esempio, di Donna Libertà, della libertà femminile, dell'equiparazione e parità dei sessi, sono diventate una rivendicazione costante delle stesse lotte operaie e delle stesse lotte sindacali. Si vuole mettere una pietra sopra questo, e invece noi pensiamo, anche con questi incontri, con quello che abbiamo scritto, di fare una piccola cosa raccogliendo un appello che è venuto dall'Iran. Una serie di organizzazioni ci ha chiesto al proletariato, noi non abbiamo questa pretesa, siate la nostra voce e di far conoscere quello che stava lì dentro. Sul documento che abbiamo fatto, soprattutto sul nostro sito, abbiamo cercato di mettere documenti di tutti i movimenti, forze politiche iraniane che sono in quest'area contro la guerra, contro lo Shah, per l'abbattimento della Repubblica Islamica. Sono cose che magari non condividiamo, ma noi pensiamo che sia fondamentale che circolino e che ci si confrontino, perché abbiamo obiettivi comuni contro l'imperialismo. La lotta è la stessa e l'internazionalismo passa attraverso il sostegno a chi in Iran si rivolta. Altrimenti noi lo useremmo solo all'interno di discorsi campisti come massa di manovra per fare schierare il proletariato iraniano e il proletariato occidentale sui fronti di guerra, nella guerra che si va delineando a livello globale. So during the last rebellions, we have had movements like Women, Life, Freedom, and which have, joined also the rebellions that have begun at the end of 2025 and the beginning of 2026. Also, all of the movements have come together, and they've also been fighting for individual rights. So within a more general rebellion, but workers' councils were also there, and they have in a way embraced also the demand for equal rights by women, life, freedom. The trade unions were also there, and this is what they want to crush, they want to erase. Well, we want to give our contribution by supporting, and we're doing this by supporting the appeal that has come to us from Iran. So what we did was to make available on our website or through printing our documents all possible materials coming from this political area in Iran. So a political area that is deliberately against war, against the Shah and against the Islamic Republic. We have to say we do not always fully agree with this position, but we think that these ideas, this position, these appeals have to circulate. Because internationalism comes through the support to every kind of action that is being taken in Iran in this area. Otherwise, it remains very limited to just one part of the fight and of the workers' fight. Credo, dando un ultimo dato per capirsi, sulla situazione sociale interna della classe operaia, è appena stato approvato dal regime della Repubblica Islamica il salario minimo dal 21 marzo 2026 al 20 marzo 2027. È fissato approssimativamente in 14,6 milioni di toman, che corrispondono a 95 dollari al mese. Questo è il salario minimo per legge. Secondo gli studi che ci sono nello stesso Iran, il fabbisogno necessario operaio per vivere è quello di 80 milioni di toman, circa 523 dollari al mese. La condizione del proletariato, dei disoccupati, della classe operaia in Iran è precipitata e viene schiacciata sempre di più da questo regime che, con le sanzioni, sarà un paradosso, si è arricchito con la guerra, si è arricchito con quel complesso che è politico, economico e militare dei Pasdaran, che sfrutta il proletariato e tutto il popolo iraniano. Qui chiudo, e se siete d'accordo anche voi, Together for Iran, inizierei dando la parola a Elta, a Erika, a Londra, e per lei c'è uno, e poi intervenite voi. I'll be doing one just a very last remarks on the social situation in Iran, the situation of the working class. So very recently the government has approved the minimum wage, and it's going to be in place from the 21st of March 2026 to for 1 year, so up to March 2027. So the minimum wage is 14.6 million toman, so amounting to more or less $95. This is what people are going to receive. But according to researches that have been done, what you need to barely survive is 80,000 million toman, so fairly around $523 per month. So the situation of jobless people, of the working class even, is has dropped. I mean, it's a very difficult situation, and they speak of sanctions, but actually the government has become richer through sanctions. So there's the Pazaran have exploited the economic and military complex to further oppress the situation. So we would like to invite Alale to speak, and then we'll pick up questions from the floor. Okay, so Alale, we'd like you to speak, and then we'll have, as I was saying, questions from the floor and a bit of debate. Thank you. Thank you so much. Can you hear me? Yes. Good evening, comrades. Thank you so much for this opportunity, and thank you so much for your statement, for real rally, for all the demonstration that you have done it to show solidarity with protesters, with people in Iran. Before starting my speech, I wanted to explain about a few terms in my speech. One of them is about when I say U.S., Israel, Iran, I mean the government of the the government of the U.S., Trump, the government of Israel, and the Islamic Republic of Iran. When I wanted to refer to people, so of course I will say people. Why? Because the difference between the governments in all over the world and these three countries and the people is a deep ocean. And we are witnessing that in our era, how governments slacked and destroyed the life of people with huge crime. So there is no connection with the vicious dream between people and the government. Therefore, it's really important to understand when I'm using this term, it means the government. I'll just stop you for a second, so I'll translate. Okay, sorry for that. Quindi buonasera compagni e grazie veramente per questa opportunità. Grazie per anche quello che avete appena detto, per le vostre prese di posizioni, per i presidi, per le manifestazioni in solidarietà al popolo iraniano. Prima di iniziare vorrei chiarirci su alcuni termini che userò. Quando dirò Stati Uniti, Israele, Iran, mi riferirò ai governi di questi paesi, quindi al governo di Trump, al governo israeliano e alla Repubblica Islamica. Questo è molto diverso da quando invece dirò popolo. Questo perché? Perché appunto i governi di questi stati hanno sempre oppresso il popolo, la vita del popolo, e appunto non c'è modo di non distinguere tra quando dirò appunto governo e quando dirò popolo, invece il governo questi governi che si sono macchiati di veri e propri crimini. Thank you. Another term is about the ceasefires, because we are now we are going for the second week of the ceasefire between U.S. and Iran. For a long time, I take it the terms of the peace that compared with the ceasefire, because we live in an era of disorder, of chaos, of conflict, and the war between those big pools, large pools, and small pools around that they are fighting, always people are victims, always people are losing their life, and then there is no peace after that. We are living in an era that the capitalism system are going in a level of barbarism. Barbarism in capitalism are seeing everywhere in the world. look at the Ukraine, look at the Middle East, look at all around the world whenever the capitalism wanted to search for their profit, for land, for everything, and we can see that how much people are suffering. So therefore, after any ceasefire, there isn't any peace for people in any country, unfortunately. Thank you. Ecco, l'altra parola su cui vorrei fare delle precisazioni è il cessate il fuoco. Quindi siamo ormai alla seconda settimana di cessate il fuoco, ma appunto questo non è un reale cessate il fuoco, non sono termini di pace, perché viviamo in un'epoca di grande disordine, di caos, di conflitto, e quindi comunque la popolazione è sempre vittima. Non ci può essere pace, ci può essere pace in un'era come quella in cui viviamo, in cui il capitalismo è ormai andato verso la barbarie. Il capitalismo ovunque, lo vediamo in Ucraina, lo vediamo in Medio Oriente, lo vediamo ovunque si vada a cercare il profitto o la razzia delle terre. Ovunque questo succede, quindi a livello globale, è il popolo a soffrire. Quindi non c'è pace neanche col cessate il fuoco per il popolo. My comrade before me explained about the revolution in 1979. Thank you so much. I missed the part of that because of the internet. I didn't hear anything, but I'm sure that he covered all the period of the hard time, especially the dark decade of Islamic Republic when they came power. They came to the power and how they slacked more than 100,000 politicians, political young people, women. And men in prison have been executed and then went to exile to live. And even Kurdistan have been vanished by the Islamic Republic troops. So I'm sure that you know enough about the situation in the 47 years, what happened with people in Iran. Quindi ecco, grazie anche per la tua spiegazione sulla rivoluzione in Iran. A un certo punto ho perso la connessione, ma sono sicura che hai detto tutto. Soprattutto hai ricordato il decennio, diciamo, oscuro che ha portato poi al potere la rivoluzione islamica, l'oppressione di tantissimi, di milioni di elementi politici, uomini e donne che sono stati uccisi o sono dovuti andare in esilio, l'espulsione del Kurdistan dalla Repubblica Islamica, ma sono appunto sicura che sappiate che cosa è successo in questi 47 anni in Iran? Directly right now I'm going to the war situation in Iran. We are aware, and you heard as well, that more than 6 million people are displaced right now. Thousands of people have been killed, many are wounded, hundreds. One of the guests. So we missed you after you were saying that 6 million people are now displaced and many have been killed or wounded. Then we lost the connections. You were frozen. Okay, can you hear me now? Yes. Yeah. So hundreds of school, hospital, working places, shops for food, fabric who workers are working there, historical places, all of them have been vanished. Bridges, streets, everywhere. And then, so all of them cost for people's life in future. Maybe the war's finished in few weeks, but the effect of this war, it will stay for generations among the people, children, young generation, workers. It says that they estimated around 12 or maybe between 7 to 12 million people would lose their job, that most of them are working class. And it means that when they lose their job, their tables for children, for the family, will be totally empty and they don't know how to live. Quindi sì, appunto stavo dicendo, sono state ammazzate molte persone, hanno distrutto centinaia di scuole, ospedali, luoghi pubblici, negozi, luoghi anche storici, hanno distrutto strade e ponti, e questo ha un enorme costo in termini di vite umane e anche proprio un enorme impatto sulle vite della popolazione. Ecco, forse la guerra finirà, ma gli effetti della guerra saranno sentiti per generazioni dal popolo, dalla classe lavoratrice, dai giovani, dai bambini. Si parla di 12 milioni di persone che sono rimaste senza lavoro e queste persone sono prevalentemente della classe operaia. Se perdono il lavoro, appunto, poi non c'è modo, non hanno più soldi, non c'è modo poi di portare avanti una famiglia, di anche sostenere i propri figli. Can you hear me? Yes, now we can hear you. The connection was okay. Gone a moment. Yes. Now it's a ceasefire, and then you remember a few days ago Trump announced that he wanted to bring Iran back to Stone Age, and he will finish with the life of Iran. And when he means Iran, it's not like me that distinct between people and the government. He means the life of people as well. And for them, it doesn't matter that millions of people, 90 million people will be just victims of such a war between them. But there is no winner in this for each of them, even they made it a peace ceasefire. Both of them showed that they win in somehow, but both of them as well showed that they have problem to continue with the war. That's why they accepted ceasefire, both of them. For America, is different from the Israel. Later on, I can explain it. Ok, quindi ora vorrei parlare del cessate il fuoco. Un po' ricorderete che un paio di settimane fa Trump diceva di voler riportare l'Iran all'età della pietra, di volerla farla finita con l'Iran, e lui ovviamente non fa nessuna differenza tra il popolo e il governo, perché non gli interessa nulla del popolo iraniano e gli interessa appunto. Quindi ci sarebbero però in verità 90 milioni di vittime. E si parla di cessate il fuoco, ma in realtà non c'è nessun vincitore, anche se questo cessate il fuoco dovesse continuare. Quindi c'è un problema nel continuare, qui credo di aver capito bene, nel continuare la guerra e nel... quindi ci si chiede se accettare questo cessate il fuoco, e in questo contesto per Trump, per l'America, la situazione è diversa che per Israele. For Israel, he wanted to make it like Gaza, finish it with Iran, because he's so worried about their existence, and he wanted to win his plan for a big a big Middle East, according their plan, which they wanted to extend the land of the Israel in many directions, including Lebanon and Syria. But for America, it was, he had a strategy, but the strategy went with the wrong method. And that was that they thought that maybe Iran is like a Venezuela. They can kill Khamenei, they can kill a few of them, in the head of the organization, and then the regime will accept everything, and then it will be some regime change, and then everything will be in the favor of the U.S. But he forgot it, that Iran is the second largest country in Middle East. Iran is like Afghanistan, that the shore of Khalid Fars all along the way is so hard to reach to the land, and then they can't just by bombing a country like 90 million, like Iran, that for many years had weaponized themselves, that in 1 week they finish it with Iran. So they realized, they saw in practice, in reality, that the Iran as well attacked them. The Iran as well attacked the alliance around them, Arabic country. The Iran threatened Arabic country, small Arabic country around the Khalid, that if you continue to support America, I will fight you and I will bombard those water for drinking. And then it was a big threat for Arabic country that they are in trouble with this issue. So there, and also during this time, Iran founded some self-esteem. Their self-esteem go up, and then they, even the proxy forces and the excess resistance from many years that he created, all of them starting reacting. Houthi, Hezbollah in Lebanon, even in Iraq, they are starting to reacting on the Americans' attack. Therefore, America found out that it's not so easy like Venezuela to attack Iran. Quindi, ecco, Israele voleva fare sostanzialmente, vuole fare in Iran quello che ha fatto a Gaza, quindi sostanzialmente farla finita con l'esistenza dell'Iran, ma questo fa parte di una strategia di espansione in Medio Oriente, per cui Israele vorrebbe espandere i propri confini inglobando il Libano, la Siria, e questa è una strategia, diciamo, diversa da quella degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti pensavano di fare in Iran quello che hanno fatto in Venezuela, pensavano di poter uccidere qualcuno al governo e che poi il regime avrebbe accettato alcune condizioni, che ci sarebbero stati dei cambiamenti che sarebbero andati, diciamo, a favore degli Stati Uniti, ma si dimenticavano che l'Iran è la seconda potenza più grande, che insomma l'Iran, tra l'altro, ha un territorio molto esteso, un territorio anche appunto come l'Afghanistan, difficile da penetrare, e che appunto non si possono bombardare 90 milioni di persone in una settimana, e che quindi tra l'altro hanno scoperto, si sono resi conto che l'Iran poi si è anche, ha anche attaccato e minacciato i loro alleati nei piccoli, diciamo, paesi arabi più piccoli, e a cui hanno detto sostanzialmente: se continuate a sostenere gli Stati Uniti, beh, vi bombarderemo anche noi, attaccheremo le vostre riserve d'acqua, diciamo, potabile. Quindi sono state minacce ingenti, e soprattutto poi l'Iran ha anche avuto dalla sua parte delle altre forze, gli Hezbollah, gli Houthi, addirittura alcune formazioni in Iraq che si sono appunto unite in funzione anti-americana. Quindi appunto gli americani si sono resi conto che poi non è così poi così facile appunto intervenire in Iran. On the other hand, Iran as well weakened by this war. Their leader, which Khamenei were killed, many other leaders have been killed in the Sepah Pasdaran, many places, army places have been destroyed, and they are weak as well, so they can't continue like that. Both needed this ceasefire to think about that, how they can continue. But also Iran is right now is trying to encourage his proxy forces that he built it around himself to come and support him. Another thing that he is doing right now in Iran he's starting to making people feel that we are in the war, you must stay with me, united. Recently, they created some festival, music festival, who coming from Arabic country in order to make it people united with the regime. Or maybe even among the working class, he's starting with a group like called Edalat-e Islami, Islamic Equality. And then this group are starting working on the working class situation. So he has always his method and to mislead the people in their own country to stay with him. The role of us is very, very important, that how we can work against this work from the Islamic regime. Sì, quindi d'altra parte è anche vero che l'Iran è molto indebolito dalla guerra, molti leader sono stati uccisi, sono stati bombardati, distrutti diversi luoghi sacri, e quindi l'Iran è indebolito e non potrà comunque andare avanti a lungo. In verità questo cessate il fuoco è anche un momento in cui si stanno chiedendo come andare avanti. Da un lato stanno comunque continuando a coinvolgere, a chiedere il sostegno delle forze, diciamo, intorno alla guerra in Iran, quindi agli Hezbollah, agli Houthi, dicevamo prima, stanno comunque chiedendo ancora questa richiesta di sostegno a queste forze, e poi stanno anche cercando di far passare alla popolazione il messaggio per cui siamo in guerra e dobbiamo restare uniti. Sono stati organizzati dei festival negli altri anche paesi arabi per, diciamo, dare supporto al regime, e anche a livello di interventi, diciamo, mirati rivolti alla classe operaia. Per esempio è nata questa iniziativa che si chiama Islamic Equality, quindi uguaglianza islamica, che diciamo è come dire, cerca di lavorare su questo, e quindi di diciamo sostanzialmente mistificare quello che sta succedendo con la classe operaia. Quindi è importantissimo che noi ci battiamo contro questo tipo di iniziative e contro la Repubblica Islamica. But the good news is that actually, because the cliff between the Islamic regime and people are so deep, and people are not with the regime, but at the moment they don't have power to show, to come to the street, because it's a war, because it's really hard. Always, war affect people's protest. If you remember the 12 days war from Israel against the Islamic regime, so for a while people couldn't come back to the street because they were devastated by the war. More than 1,000 people have been killed in this war, 12 days. So therefore, always people needed after the war time to heal, to go back to their wounded pain that they had got it during the war, to build their own roof above of them, to look after their neighbors, to look after their family. And then when they get its strength, they are coming back to the street, definitely. And right now, actually, one of the leaders, who is Reza Shahabi and Ismail Bakhshi, they clearly announced that we are not with Israel, America, nor with Islamic regime. We are fighting against the Islamic regime by our own term, but we don't accept the war from America and Israel. And that's a big message from the working class as well. Quindi quello che appunto c'è, cioè, anche una bella notizia, cioè, ovvero che c'è un grande, una grande frattura tra il regime islamico e la popolazione, una popolazione che però ha molta difficoltà in questo momento a scendere in strada perché è in corso una guerra. Ma se vi ricordate quello che è successo dopo la guerra di 12 giorni di Israele contro il regime islamico, beh, perché poi la gente non è tornata in strada? Perché sono state ammazzate più di 1000 persone e le persone hanno bisogno di tempo poi per diciamo per riprendersi, per come dire, ricostruire, per anche elaborare il dolore portato dalla guerra, per prendersi cura dei vicini, poi torneranno in strada. Ma ci sono già stati dei segnali, qui sono stati detti due nomi, you've mentioned two names by two activists who are against the US and Israel, and also against the Islamic regime. Can you repeat the names? Ismail Bakhshi e Reza Shahabi. Yeah, Reza Shahabi e Ismail Bakhshi, che hanno preso posizione ovviamente contro gli USA e contro Israele, ma anche contro il regime islamico, e non accettano che come dire, la lotta contro il regime islamico sia condotta dagli americani. E quindi questo è una cosa molto importante che sta venendo dalla classe operaia. Iranian society is a strong political society for years, but it doesn't mean that there is a hinder in front of them to reach for to their dream for a free freedom, equality, a peaceful world. In Iran, there is many opposition who lives outside Iran or working inside Iran. One of the most dangerous opposition who may be a big hinder for people in Iran is monarchy with Reza Pahlavi. I'm sure that you heard about that. And the other is Mujahideen as well. Beside them, there is groups like nationalist group, Republican. All of them are looking for their own power by their own term. Even Mujahideen is so dangerous that it's like any gangster group, like a cartel, that any government can hire them and doing a very dangerous operation in Iran, which is against the people's will. So therefore, having such an opposition that have been supported by other congressmen like America, Israel, especially for the monarchy, it's still there is a bad scenario, a dark scenario for Iran, that Iran's situation in future shifted by the monarchy, running by the monarchy, by Mujahideen, by nationalist group, Republican, and then it will be a very bad situation for Iran. The only hope is that a third alternative, that later I will talk about that. Quindi nella, appunto, la società iraniana ha cercato di distruggere una azione politica, ma questo non è un ostacolo anche al sogno di qualcosa di diverso, alla lotta per la libertà e per l'uguaglianza. In Iran esiste un'opposizione esterna e poi c'è anche un'opposizione esterna, cioè dentro il paese e poi fuori dal paese. Parte delle forze di opposizione sono molto pericolose, sono la monarchia, che sostiene appunto Reza Pahlavi, i Mujahideen, e accanto a questi ci sono delle forze nazionaliste repubblicane, ma ognuna di queste forze voglia ottenere il potere secondo le proprie condizioni. Sono tutte forze, diciamo, contro il popolo, e i Mujahideen sono stati spesso anche ingaggiati per azioni molto violente. E appunto queste opposizioni hanno il supporto degli USA e di Israele, e se dovessero prevalere queste forze si apre uno scenario molto tetro. L'unica speranza è l'alternativa di cui vi parlerò ora. The third alternative is our alternative. It's a socialist party communist parties, radical and secular group, women's movement, working class movement that can be united and create a council-based government that we have in our manifesto. Recently, before this war, we had a conference, international conference, six political, socialist political group came together and writing a manifesto about council-based government. This council-based government is the hope for working class, for women's movement, for young people, because in this manifesto showing that how people can lead their own country through the councils, in working place, in school, in university, teachers, students, nurses, doctors, all of them have the councils, and through the equal rights, they are creating a government. Maybe if you are interested, maybe we can talk more about that. So this alternative is not supported by any governments in the world, of course, because it's a kind of related socialist idea. And then therefore, it's only working class and people on the ground, on the grassroots, will love such idea. So therefore, it's really important that we focus on this alternative. We must unite. We must create our organization. We must talk with people. We must do our agitation in public, widely, and we must get support of international part, from working class internationally, from women's movement internationally, from Gen Z, Gen Z, young generation, that they are very brave in every demonstration, every fight, that we get its support from them for solidarity. This is the alternative for a free Iran in future. Quindi l'unica alternativa è l'alternativa appunto che proponiamo, un'alternativa che unisce forze socialiste, comuniste, radicali, laiche, le donne e la classe operaia per un tipo di governo basato sui, diciamo, sui sui consigli. È quello che abbiamo dichiarato nel nostro manifesto. Abbiamo scritto abbiamo redatto un documento con sei gruppi politici e l'obiettivo è quello di unire appunto le donne, la classe operaia, i giovani e di creare consigli nelle scuole, nelle università, medici, infermieri, insegnanti che appunto possano così governare il paese. A questa forma di governo non è arrivato nessun tipo di sostegno da nessuna parte, perché ovviamente è un'idea, appunto è un modello socialista, ma è importantissimo che invece noi ci concentriamo su questo obiettivo, che ci uniamo, che ci organizziamo e che si organizzino anche delle agitazioni in questo senso e che si crei un sostegno internazionale a livello di classe operaia e delle donne, ma anche dei giovani, la generazione X, la generazione Z, che ci sia una solidarietà. Questa è l'unica alternativa per un Iran libero nel futuro. Finally, in the last of my speech, I wanted to say that we are close to International Working Day, May Day, and I am hoping that in May Day, the international support all over the world would be for working class in Iran, that they can regain their organization, regain their basic life, to stand up again for fighting against Islamic regime. Only Islamic regime can be defeated by the working class, by people in Iran, by protesters, because freedom is taken, not given. And regime change or any idea that from outside by bombing, bringing democracy to Iran is totally wrong. And thank you so much for this time that you gave me. Thank you. Ecco, alla fine vorrei solo concludere dicendo che ci avviciniamo al 1° maggio e spero che in questa occasione ci sia un sostegno internazionale in tutto il mondo alla classe operaia in Iran, che possa finalmente riprendere a organizzarsi, ribellarsi contro il regime islamico, perché se qualcuno può sconfiggere il regime islamico, questa è la classe operaia. Non c'è nessun cambio di regime, nessun bombardamento, nessuna importazione della democrazia da fuori che possa appunto essere efficace in questo modo. È tutto inutile e quindi vi ringrazio molto per essere qui stasera. Thank you. Diamo la parola a Together for Iran. Now speak Together for Iran. Ok, grazie a tutte e a tutti, specialmente al Centro di Documentazione contro la Guerra, anche il COX e anche Helaleh per tutto ciò che ha detto, anche l'introduzione che è stato molto bello. Non vorrei dilungarmi perché già avete spiegato sia voi sia Helaleh un po' la situazione. Dico molto una molto breve, diciamo, riassunto di ciò che abbiamo visto in questi giorni, e lascio anche parola a Said, forse anche lui vuole aggiungere qualcosa, e poi volentieri sentiremo le domande e poi anche interventi dal pubblico, chi vuole intervenire. Diciamo che abbiamo visto, anche abbiamo sentito, cioè in 40 giorni cosa è successo. È successa una guerra contro l'Iran, sto parlando di questo 40 giorni di guerra, che come sappiamo non è un guerra, come tutte le guerre, non è un guerra contro il governo, è come sempre contro il paese, intero paese. Crea disastri sia umanitari, anche ambientali, anche economici per anni da venire, cioè distrugge tutto ciò che vive in un paese, tutti esseri viventi, non sono neanche esseri umani. I have to translate for Helaleh. Thank you. Thank you to the Center for Documentation Against War, to COX, and also to Helaleh for what she said and for the introduction. So we won't take much time, but we'd like just to give a brief summary of what we have seen. And Said then will also intervene, and then we'll take questions from the floor. So we have seen what has happened over the last 40 days, the last 40 days of the war against Iran, which is not a war against the Iranian government, it's a war against the whole population, which will have also disastrous consequences at the humanitarian or environmental level. It will destroy everything, and there will be, long-term consequences. Parlando dell'aggressione militare israeliana e americana e cosa ha causato, cioè parlano meglio i numeri, vado velocemente ai numeri, in 40 giorni solo, più di 1700 civili morti, più di 300 bambini morti, 20 scuole distrutte con le bombe, 21 università, e attenzione, questo era chiamato attacco mirato, cioè cominciato così con assassini, cioè diciamo eliminazione di Khamenei, ma cioè che sembrava un propaganda per dire che sono attacchi mirati, ma subito dopo sono cominciati questi. 21 università, 154 centri di istruzione sono stati distrutti, compresi università, scuole, cioè anche altri centri come centri di insegnamento di musica, per esempio. Cose che sono liberi in Iran da 30 anni, prima erano vietate anche. E poi due raffinerie molto molto importanti, in uno di cui lavoravano attorno 100.000 lavoratori, cioè ieri hanno detto 100.000 lavoratori sono diventati senza lavoro a causa di distruzione di una raffineria a Khuzestan, solo a Khuzestan, una città. Sono stati distrutti 10 ospedali, 10 depositi di carburanti, 24 centri farmaceutici e 4 ospedali. Riguardante i centri farmaceutici, solo aggiungo questo, che in Iran, come sappiamo, da molti anni abbiamo sanzioni molto molto gravi da parte degli Stati Uniti. Diciamo che abbiamo sempre avuto problemi con chi ha malattie rare, per esempio alcuni tipi di cancro, perché anche questi farmaci da un lato costano un sacco, dall'altro lato, essendo sotto sanzione Iran, costano molto molto di più. Quindi Iran era molto sviluppato nella produzione di questi farmaci, non solo per l'Iran ma anche per tutto il Medio Oriente, e Israele apposta ha distrutto diciamo uno dei centri più importanti produzione di farmaceutici. Scusa. No problem. What did the aggression by the US and Israel cause? Well, we've seen it through these 40 days. 1,700 civilians killed, 300 children, 20 schools have been destroyed, 21 universities, and these were only the, let's say, targeted attacks. So, for example, for the killing of Khamenei. Other schools also were destroyed, 154 educational centers. We're talking about, for example, music school, which have been allowed in the country for the last 30 years. They were prohibited earlier. Two very big refineries have been destroyed. One of them, for example, had 100,000 workers working in it. So these 100,000 workers are now jobless. It's a refinery in Khuzestan. And then further, other oil repositories, and also the factories that have been destroyed are pharmaceutical factories, because of the sanctions, Iran has had to start a production of medicines for rare diseases or cancer, which costed whose price was very high. So Iran started an internal production, which it also exported across the Middle East. And Israel destroyed one of the most important pharmaceutical factories. Adesso vediamo cosa ha fatto il regime durante questi giorni. Come aspettavamo, cioè, il regime sempre ha usato la guerra come una scusa per, diciamo, aumentare la repressione e la censura contro il popolo. Cioè, solo il numero di esecuzioni sono aumentati di 60% durante questi giorni, cioè, sin dall'inizio, anche se sono passati davvero pochi giorni, hanno cominciato a dichiarare apertamente che chiunque dice qualcosa contro il governo sarà considerata come una spia di Israele e Stati Uniti, perché siamo in guerra, per sicurezza nazionale, per il popolo dobbiamo fare così. Quindi 60%, e ogni giorno stanno dichiarando: abbiamo fatto fuori, cioè abbiamo fatto esecuzione di 4 persone, 3 persone oggi, 4 domani, ogni giorno. Prigionieri politici anche, che già erano nel prigione con condanne di morte tolto, hanno eseguito anche alcuni di loro, cioè cioè l'hanno fatto anche se era tolto il condanne di morte da loro. E poi hanno anche fatto molto più repressione contro attivisti, specialmente delle donne, attivisti dei lavoratori. Per esempio Nasrin Sotoudeh, abbiamo sentito che l'hanno peggiorato la sua condizione dentro il prigione, e lei ha avuto un attacco cardiaco qualche giorno fa dentro prigione, e non l'hanno lasciato di andare fuori, cioè è dentro prigione nella stessa cella con assassini, con alcuni assassini. Quindi hanno mischiato anche prigionieri politici, a posto li mettono con prigionieri un po' pericolosi per peggiorare la loro situazione. Quindi cosa ha fatto il regime in questo periodo? Beh, il regime ha utilizzato la... scusate. What did the regime do during this period? Well, the regime used war as an excuse to I mean, to repress, to oppress people, to in a way, have more censorship going on. Executions have gone up by 60% in a few days. So in a few days, it was declared that whoever said anything or expressed any opinion against the government was automatically a spy for Israel or the US. The message was, we are at war, we have to protect our national safety. And there are at least 3-4 executions a day. And also the conditions of political prisoners has worsened. People who were in prison and they should have not been imprisoned are serving their sentence in prison. Their condition has worsened. There has been a huge repression against activists, especially against women and the working class. And political prisoners have also been put in the same cell with criminals. So that was another way to oppress furtherly political prisoners. You said, hai detto un nome di una prigioniera politica? Okay. Nasrin Sotoudeh had a heart attack in jail, and she couldn't be. Narges Mohammadi had a heart attack in jail, and well, the result was she was moved to a cell with a criminal, with a common criminal. Sono persone che il governo li prende con la scusa di aver fatto qualcosa contro la sicurezza nazionale. Cioè, espresso solo le loro opinioni. I prigionieri politici sono quelli che hanno espresso un'opinione contro il regime. O sono attivisti, hanno organizzato scioperi o attività politiche. This question from the floor: what do you mean by political prisoner, and how do you quantify the political prisoners involved in these conditions? And so, political prisoners are as political prisoner, we mean everyone who is against. Who is in jail because he has been found to be an enemy of national security, who is against national security. Anyone who has expressed an opinion against the regime, or even activists, people who have organized strikes. Poi torniamo dove su cosa possiamo noi fare noi come diciamo persone prima iraniane anche all'estero, anche compagni di sinistra per dare un sostegno. Cioè, noi pensiamo che ovviamente sempre simultaneamente si deve condannare entrambi i lati di questa guerra. Cioè, non è sufficiente condannare un lato, cioè entrare in campismo, dice che condanniamo questo perché adesso è un periodo critico. Ovviamente anche noi dobbiamo riconoscere sempre l'aggressore sono stati Stati Uniti e Israele, senza dubbio riconosciamo, diciamo che loro devono fermare questa guerra e ovviamente anche dobbiamo condannare il regime. Non dobbiamo pensare che il regime fa parte di una cosiddetto asse di resistenza. Non esiste un asse di resistenza, lo chiamano alcuni di sinistra qua, pensano che l'alleanza di Russia, Iran, Cina è un asse di resistenza contro l'imperialismo. Questo che vediamo non è altro che l'altro volto del fascismo, non è asse di resistenza. È un puro fascismo, cioè, che stiamo vedendo noi dentro Iran, che fa repressioni esattamente come fa Stati Uniti in Guantanamo e in altri posti. Quindi tutto qua. E poi l'altra cosa che dobbiamo fare, secondo me, noi dobbiamo essere la voce di chi sta lottando in Iran e provando a seguire loro, non che noi diamo a loro diciamo, creiamo per loro dall'estero una certa, diciamo, manifesto per come devono lottare, perché secondo me le lotte sempre cominciano da Iran, dai sindacati dentro Iran. Cioè, perché le situazioni non sono sempre ripetute, cioè, hanno sempre le loro particolarità, le cose che sono particolari di quel caso. Quindi sono loro che con loro creatività creano modi di lottare, nuovi modi di unire il popolo, i lavoratori. Cioè, secondo me noi non possiamo dire a loro cosa possono fare, questo è il mio parere. We have to translate. I'd like to go back to what we can do as Iranian who are abroad, expatriates, and as comrades. We think that we have to fight simultaneously against both sides, that we have to condemn both sides. So we don't have to stay just in one camp, so both the US and Israel and the Islamic Republic. We are experiencing a very, of course, critical period. Of course, we know very well who the aggressor is, and the aggressor are the US and Israel. But we also have to condemn the regime. There is no so-called axis of resistance. Here we often hear that Russia and China are the axis of resistance against imperialism. Well, such a thing does not exist. This is simply the other face of fascism, because inside Iran, the Islamic Republic is behaving just like the US in Guatemala or in other places around the world. So we want to be the voice of the people who are struggling in Iran. We have to follow them. So we do not need to give them instruction. We do not want to give them instructions on how they should fight, because struggles start in Iran. And and there's not just one group. They are creating new ways of fighting, and each group, each movement has its own specificity. We have to unite. They are trying to unite workers, and we have to support them. L'ultima cosa, cioè, la situazione è molto molto simile a ciò che è successo secondo me in Siria, cioè la guerra in Siria. Lì abbiamo visto la presenza di Assad prima di tutto, da un altro lato Russia, Stati Uniti, e poi si è raggiunto Inghilterra, cioè poi Iran, c'erano tutti, diciamo, poteri del mondo, sia mondo sia regione, anche Inghilterra. Cioè, ma l'unica cosa che non interessava a nessuno di questi era il popolo siriano, a nessuno di questi poteri, da Assad fino a, cioè, potevano ammazzare anche milioni di persone solo per mantenere il potere o prendere il potere, cioè tutti loro, Israele, Stati Uniti, Iran. Quindi è la stessa situazione in Iran, quindi è sbagliatissimo pensare di prendere posizione a favore di uno di questi poteri. Vi ringrazio e lascio la parola a Said, se vuole aggiungere. Grazie. To say just one last thing, the situation in Iran is now very similar to what happened in Syria with Assad. So on the one side we had the US, Russia, the UK, Iran, they didn't consider the Syrian people. They had no interest in the Syrian people, all of them, and they could have easily killed them all. And the same is happening in Iran. So we do not have to take position such a position with these powers. Saluto tutti, grazie per partecipare. Saluto tutti compagni qui e anche online. Volevo infatti elaborare l'ultimo punto che ha detto Behrouz. Noi dobbiamo, cioè, diciamo che in una situazione di guerra non esistono solo bombardamenti fisici, ma anche bombardamenti di propaganda. da tutte e due parti, cioè da una parte ci sono gli Stati Uniti e Israele che dicono che stanno andando a salvare il popolo iraniano, dall'altra parte c'è il regime che dice sta lottando per tutti i popoli oppressi del mondo, e invece non è così, cioè noi dobbiamo sapere dove tracciare la linea, cioè da una parte c'è il popolo, dall'altra parte l'imperialismo e la dittatura insieme contro il popolo. Okay, sentivo il disturbo. So, hello, good evening everyone, and thank you. Good evening, comrades who are here and online. I just wanted to take over from Beirut's last point. The war is a situation in which booms are not just real booms, but also the bombardment of propaganda. So on the one side, we have the US and Israel's propaganda. On the other side, the regime who says that they are fighting for all the oppressed people of the world. And we have to know where, we must know where we need to draw the line. On the one side, there are the people, okay, the people of Iran, and on the other side, the dictatorship and the government. Per quello è molto importante allo stesso tempo dire no alla guerra, no alla dittatura del regime, perché se diciamo solo una di queste due cose, quindi cadiamo nella forse trappola, tra virgolette, di campismo, perché se diciamo no al c'è un no, fatto perché c'è una parte dell'opposizione adesso che dice no al regime, cioè o appoggia la guerra oppure non dice niente riguardo alla guerra, dice no al regime, quindi sta comunque dando un ok, una sorta di appoggio all'imperialismo. Dall'altra parte c'è anche una parte di sinistra che per il fatto che Israele ha attaccato l'Iran riconosce il regime come un elemento di resistenza, come diceva Beirut. Ma invece dobbiamo metterci contro tutti e due insieme, contro l'imperialismo e contro la dittatura. Can I ask... I can't hear you. Ah, you can't hear us. Yeah, if you can tell Flora to mute herself, because Flora, it looks like that Flora noise is il coming microfono. From there. Il microfono di Flora pare che faccia. Actually, it's our microphone. Can you hear me now? Can you hear us? Hello, Le? Yeah, it's too much background noise. I don't know. C'è from... molto rumore di fondo. Oh. Okay, can you hear us better now? Yeah. Okay, yes, great. Yes, thank okay. you. So Said was saying that it's very, very important to say no to war, but also no to the dictatorship of the regime. We can't just say one of these two things, otherwise we fall into the trap of limiting ourselves to just one camp only. There's a part of the opposition in Iran that just says no to the regime, but they do not say anything about the war. So somehow it's as if they were supporting the war. On the other side, part of the left, because Israel attacked Iran, well, they think that the regime is a force of resistance, which it isn't. So what we have to do, we have to be against both imperialism and the dictatorship. L'unica, un'ultima cosa è che adesso un movimento che per il popolo può avere diciamo benefici è un movimento come Donna Vita Libertà, cioè nato dal popolo e per il popolo, cioè donna contro il patriarcato, vita contro lo sfruttamento e libertà contro la dittatura. Grazie a tutti. Just one thing now, one of the movement that is highly benefiting the people of Iran is Women, Life, Freedom, because it's a movement that comes from the people and it is for the people. Women against patriarchy, life against exploitment and freedom against dictatorship. Se vogliamo iniziare, se ci sono domande da fare, anche se dite a chi volete farlo, lo stesso vale per chi è in internet, se vuole intervenire e fare delle domande. Un po' d'acqua. Io volevo chiedere a chiunque di voi, la sinistra vera, diciamo, in Iran viene massacrata dal 1953 continuamente. Quanto è rimasto della sinistra vera? Quanto quello che noi diciamo stasera ha possibilità di svilupparsi in un movimento di massa? A question. So I wanted to ask, the real left in Iran, the real left has been crushed and repressed since 1953. How much is left of it? And how is it possible to imagine what we've just been saying right now? Is there a real possibility for it? Se, hai toccato un punto che io mi sono dimenticato di dire, che la dittatura in Iran non c'è solo di 47 anni del regime, ma va avanti da molto di più, sia il regime dello Shah, ma anche prima. Ma queste dittature hanno represso la sinistra, sia nel regime dello Shah, sia con i massacri che sono successi nel regime attuale, nel regime islamico. La vera sinistra, se intendo come sinistra organizzata, adesso esiste, diciamo, veramente poco, solo magari nei sindacati oppure associazioni come Associazione degli Scrittori. Diciamo, non è un partito, anche perché il regime impedisce qualsiasi organizzazione in Iran. Cioè non solo di sinistra, ma anche i liberali non si possono organizzare. Arresta le persone subito e imprigiona le persone, a volte anche eseguisce le persone che iniziano a fare un'organizzazione. Quindi la possibilità che c'è adesso può essere che i piccoli movimenti possono unirsi, come è successo nel movimento Donna Vita Libertà, come diceva il compagno prima. Cioè questi piccoli movimenti si sono uniti in un movimento più grande come Donna Vita e Libertà. Secondo me quella è l'unica possibilità adesso in questo momento. No problem. So you actually touched on a very important point that I forgot to mention. So the dictatorship in Iran has not been going on for 47 years, but for much, much longer actually. These dictatorship have repressed the left, on the one side the Shah, but also the current regime with its massacres. The real left, well, the organized left is a very small part now. It's very few people. We have the trade unions, some associations, for example, the writers associations, but no actual party, because the regime prohibits the formation of any party, not only on the left, but also, for example, on the liberal side. So then there was a question from the floor in which, what do you mean by prohibits? Well, they arrest people, they put people in prison, they also execute people, anyone who starts an organization. So the possibility that we have now is to join forces, that small movements join forces into a bigger movement. That is what happened with Woman Life Freedom. So it's a bigger movement, and it's the only possibility. Solo per dire una cosa, cioè, concordo 100% con ciò che ha detto Said, solo aggiungo che c'è. Per me, finché, cioè, in Iran, come diceva lui, non esistono più i nomi o le loro influenze non li vediamo più, perché sono tutti visti come clandestini da parte del governo. Cioè, non si vede, anche da quando c'era il regime dello Shah, sono stati repressi tutti i partiti. Ma comunque la sinistra, cioè, dobbiamo definire prima cos'è la sinistra o la vera sinistra. Per me tutti che in cuore hanno un senso di uguaglianza e stanno verso l'uguaglianza sono di sinistra, cioè hanno idee, possono avere idee diverse. In Iran è esattamente così, quindi non ci sono riferimenti come partiti, ma la gente si riuniscono comunque, e finché ci sono poveri, finché ci sono lavoratori, ci sarà anche ovviamente la sinistra in tutto il mondo. Cioè, la sinistra sono i poveri che vogliono giustizia, cioè, quindi solo questo. I wanted just to say one thing. I fully agree with what Said just said. So in Iran, there are no visible names, no visible influences. All political elements are now underground, and they've been repressed under the Shah, and they are repressed now. So, but we have to ask ourselves, what is the left? What is this real left we're speaking about? Well, the left is anyone who cares about equality. But in Iran, there is no party of reference right now, but people still unite. And as long as there are workers, there is a left. Vuoi sapere l'importanza e il peso della diaspora, che è numerosa, no? C'è la parte dello Shah, eccetera. Cioè, in termini politici, quindi, che si può avere una capacità organizzativa di preparare una situazione di sostitutiva, perché chiaramente occorre preparare una nuova classe dirigente che possa e sia in grado poi di cacciare, no, l'attuale regime e possa prendere. Però questa classe dirigente in quel momento non si riesce a preparare, perché la repressione è talmente forte. No, se non alcuni settori sindacali, politici, o comunque quella resistenza sostanzialmente che non appare, no? È sotto traccia sostanzialmente. Probabilmente si formano delle classi dirigenti anche all'esterno. Quindi la diaspora ha un peso, potrebbe avere un valore nel cacciare il regime attualmente di rigore o no? Yes, the question is, I want to know what is the importance, the impact of the huge Iranian diaspora abroad? Can the diaspora actually do something, prepare like a new ruling class to finally send away the regime? Can it organize? Can it have an organization? Is there a ruling class in the diaspora that can actually act in support of what is happening to the people of Iran? Allora, secondo me, personalmente penso che può avere un'influenza in organizzare, in creare reti, ma alla fine la parola finale sarà del popolo iraniano se vuole fidarsi della rete creata nella diaspora. In questo momento ci sono tentativi in corso di creare queste reti, creare certe assemblee, ma comunque non essendoci internet in Iran non possiamo vedere il risultato di quello che veramente sta succedendo, ma magari quando torna internet vedremo come e quanto saranno riusciti di mettersi in contatto e creare queste reti. Ma dall'altra parte c'è anche il peso negativo della diaspora, cioè nel senso c'è una parte della diaspora che sostiene la guerra, sostiene Israele-America, sostiene il figlio dello Shah, quindi hanno tanti soldi, hanno i media, quindi sì, sostiene Israele, come sì, assolutamente, cioè alla fine un peso ce l'ha, cioè magari fa sì che una vera alternativa non può farsi vedere, perché loro sono un riflesso del regime stesso, nella loro gerarchia del potere come la vedono e nei loro modi anche di parlare, di interagire con gli altri attivisti, perché non credono solo di loro stessi, cioè non vogliono creare un'organizzazione. C'è una persona come re e basta. Quindi anche dall'altra parte ha un peso negativo. E secondo me dobbiamo solo aspettare che torni internet e vedere quanto può essere effettivo praticamente. So for me, I mean, the diaspora can have an influence in organizing networks, for example, but the final word rests with the people of Iran. I mean, then they might want to join the diaspora. It's okay. Right now, they are actually in Iran. They are probably gathering, they are rallying, but there's no internet now, so we can't really see what is going on right now. And when internet comes back, we will be able to see, we will be able to get in touch with them and see if they have managed to create networks also and to create networks with the diaspora. On the other side, there's a part of the diaspora which has a very negative impact because they support Israel and the US, or they support the Shah's son, and they have plenty of money, they have the media on their side, and, well, they matter, actually. So, and they are actually an obstacle to the appearance of a real alternative. They are just mirrors of the regime. They have the same hierarchy, the same manners, and now, I mean, they don't interact with other groups. For them, there is only one alternative, the king. And this has had a very negative impact, but it's only when internet comes back that we'll be able to see what is really happening in Iran. Allora bisogna spiegare, cioè viene chiesto dalla sala se esistono delle organizzazioni di base, di quartiere, di gente che si trova e che si organizza. Yes, so there's a question from the floor asking if there are no grassroots organization, neighborhoods organization or even city organization who can promote initiatives. Se posso dire una cosa, sul nostro blog abbiamo messo tutta una serie di materiali dell'Iran e di iraniani. Ripeto, uno può condividere o non condividere. Danno prima un'idea di una ricchezza e di un dibattito politico e di un'ampiezza che c'è. E ci sono dentro anche resoconti dalle città dell'Iran nei primi giorni di bombardamento. Lì non è che fai proprio il comitato di quartiere, perché ti arriva il pasdaran, cioè la funzione, il modo di operare è che ci si conosce in tre e si fanno le organizzazioni a cellule, perché vai dentro, vieni arrestato, arrestano la famiglia. Questa è la situazione dell'Iran. Ovviamente vediamo che cosa si sta muovendo e cerchiamo di dargli voce. Questo almeno noi, come che non capiamo i siti in farsi. Yes, so if I can say something on our blog, we have been uploading materials coming from Iran, Iranian materials, and well, you can agree or not with what you read in those materials, but they witness actually a very wide debate, a lively debate, and there are also some reports from the first days of war, of bombings. And so, well, under bombardments, there is no time actually to set up an initiative because the pasdaran is going to come. So, well, actually, you have few people coming together. You have small cells, okay, coming together, and otherwise they can arrest you. So we are just trying to see what is happening there and to give voice. Of course, we cannot read Farsi, so there is a limitation. Grazie per la domanda, è una bella domanda e ci sono riferimenti da basso, diciamo movimenti da basso. Nelle grandi, cioè Iran è un enorme paese con popoli molto, cioè ci sono i curdi da un lato, i turchi da un lato, e poi ci sono montagne molto alte tra di loro, a volte deserti tra una parte del popolo e l'altra parte, non capiscono neanche le loro lingue, quindi non possono parlare tra di loro tranne in persiano, ma sono abituati a parlare la loro lingua, quindi ci sono tutte queste difficoltà. Cioè, ma quello a livello locale, a base dove sei, ci sono molti riferimenti. Per esempio, in grande città dove sono molto industrializzati, come Teheran, come acciaieria di Khuzestan, come quello di Haftapeh, mineria di Haftapeh, sono i sindacati i riferimenti e sono stati per sempre, cioè per molti anni, specialmente negli ultimi 10-20 anni, sono stati molto attivi, sono organizzati scioperi, diciamo manifestazioni, intera città, per esempio Haftapeh ha organizzato l'intera città per forse quasi un anno. Dopo spiego come si può, quali sono i riferimenti, prego. E poi sono i curdi, per esempio. I curdi, essendo uno dei pochi o forse l'unica etnia in Medio Oriente che non ha mai avuto un governo per sé nella sua storia, cioè sono abituati a lottare, essere insieme, essere uniti e lottare insieme. Questo ha portato che loro sono i primi in Iran che hanno avuto partiti, sono molto organizzati, hanno avuto ovviamente sempre clandestini, in maniera clandestina, loro hanno avuto, come i sindacati, anche i sindacati in Iran, tutti questi sono clandestini, cioè non possono legalmente lavorare dal punto di vista del governo. I curdi quindi hanno i loro riferimenti del partito, loro nella loro zona locale sono molto attivi. E poi ci sono i baluci, anche loro sono molto uniti, hanno un'altra anche religione come i curdi, anche la loro religione non è sciita, sono sunniti, quindi anche per quello motivo loro sono molto uniti. Hanno un riferimento anche religioso che è contro governo, anche comunque è molto popolare, molto amato dai baluci, quindi il governo ha provato a farlo fuori, ma non riesce perché ha paura dei baluci stessi, cioè, sono molto attaccati a questo leader. E poi ci sono anche le università. Nelle università ci sono molti gruppi di sinistra che vanno creati nuove, come qua in Italia, cioè, se io vi chiedo quali sono i movimenti studenteschi, cioè, forse non si sa il nome neanche, perché si sta creando, mentre stiamo parlando, mentre un movimento, forse un movimento si sta creando dentro le università. Quindi è lo stesso in Iran, e poi essendo anche c'è il discorso di clandestinità, quindi loro non danno mai i nomi, no? Cioè, sono tutte le cose nascoste, ma si vede che per esempio quando succede qualcosa ai Kurdistan, si vede che alcuni gruppi di universitari emergono e fanno qualcosa di sinistra, quindi esistono, ma sono sempre a livello locale, non a livello nazionale. E poi Said forse voleva aggiungere qualcosa. Just a second. Okay. That's a good question, because yes, in fact there are grassroots movements also in Iran, but Iran is a very big country with many people. So you have Kurdistan, you have the mountains, the desert, and sometimes people don't even have a common language. I mean, they can speak Farsi, but they're used to speaking their language, and that poses many difficulties. But there are many references, mostly at a local level, in these places. Otherwise, lei non sente? Allora, solo aggiungo una cosa, che queste organizzazioni che ha detto Behrouz comunque sono organizzazioni di presenza, diciamo, ma ormai c'è anche social media, Instagram, Twitter, ma anche gruppi familiari, cioè quando c'è un magari un partito in Kurdistan, oppure qualche associazione che nominavo prima, fa un appello per proteste, comunque viene distribuito sui social media, nei diversi gruppi, quindi comunque alla fine arriva alla gente, però comunque quando c'è internet. E abbiamo altri due interventi. Ce n'è? Altri due sono già pronti. So I'll translate. There are grassroots movements in Iran, but we also have to say that Iran is enormous. It has many peoples. So we have Kurdistan, the mountains, desert, and sometimes these people don't even share a common language. I mean, they can speak Farsi, but they prefer to speak their language. So this poses difficulties. So we have many experiences at the local level. On the other side, we have big cities, Tehran, Kuzme, or Haftapar. And there, the trade unions are stronger. They have been organizing strikes and demonstrations over the last 20 years. Of course, you have the Kurds. The Kurds are the only people in the Middle East who have never had their own rule. So they've always joined forces to fight together. And they are very well organized. There are parties, trade unions. Of course, they are all underground. They also represent reference. Then the Barushi, so they have, they belong to another religion, so they have their Sunnite, and they are against the government, and the regime is actually afraid of them. And then you have the movements, the groups that are inside university. There are many leftist groups, like here in Italy, but we don't know their names. Of course, they don't even, sometimes it's very difficult to reveal one's names because these people are underground. But when something happens in Kurdistan, for example, they do know it and they spread the word locally. And another thing, these organizations were also present on social media. There are family groups. So when, for example, a party in Kurdistan makes an appeal, it comes across social media. But now, right now, there is no internet. Allora. We can't hear you. Your mic is off. Yeah. Okay. Yeah. First of all, I wanted to bring an experience recently in the rally, big rally in London. About 500,000 came to support against the war in Iran and to support people in Iran. So it was a different flags, different opposition, different idea, all of them came at once together. And then I remember that when we put it no to war, no to Islamic Republic, no to terrorist regime, Islamic terrorists. So our friends have been attacked by a group of Palestinian group and the Lebanon group, which they came with the flag of the Islamic regime. And so therefore we needed to move to another part of the group because it was quite dangerous. And then, and I also saw that behind the flag of the Islamic regime that they came, even in this rally, it was some lefties from Europe. So what is the problem is that we have a problem in Europe when they are, especially among the leftists. I can totally understand the monarchy side, European side, that they are supporting Israel, America, and monarchy, totally clear. But there is a leftist in Europe, in around the world, that under the name of anti-imperialism, they are supporting Iran, or they are not criticizing Iran at all. And they are saying that no to war, only. And even in the statement, we fought it many times as a party politics challenge and discuss with a colleague from the left side in Europe and say that you have to condemn Islamic regime of Iran, terrorist regime of Iran. And then they say that no, but at the moment they are fighting against the America, against the imperialism. They are the anti-imperialism as well. So you see that how narrow it is sometimes to unite among even the lefties in Europe. So for us, it's so clear that it's no to war against Iran, no to the Islamic regime, both of them, clearly. But at the same time, we needed to raise awareness, encourage the lefties, a part of the lefties in Europe, that actually they are wrong, that hiding themselves behind the flag or umbrella of anti-imperialism. And there is a problem. Another issue as well inside Iran is a problem. I translated wrongly. It calls Adalat Islami, it calls Islamic justice, justice of Islam or something. So they are targeting working class inside of Iran. They are part of the government. They created by the government. And they are focusing on the poor society, including the working class. They bring food, medicine, money, supporting the neighbors. And it's the same issue called Salafi Islamic in Kurdistan, that they did it. And then they grow, unfortunately, among the people, among the poor people. And there, it was a big fight for us to challenge them because we weren't there. They were supported by Islamic group inside the Iran. Okay, I'll translate just also, a second. Yes. I'll translate because it's very long. Quindi io vorrei portare l'esperienza delle manifestazioni che abbiamo organizzato a Londra contro la guerra, e queste manifestazioni appunto dicevano no alla guerra, no alla Repubblica Islamica, no al terrorismo islamico, e se ho capito bene, perché era un po' difficile l'audio, you were attacked during the rally by a group of Palestinians with the flag of the Iranian. Yes. Okay. Now I just wanted to be sure got it right. Okay. Quindi sono stati attaccati a un certo punto durante la manifestazione da un gruppo di palestinesi con la Repubblica, la bandiera della Repubblica iraniana. Quindi hanno dovuto proprio poi allontanare tutta una parte dello spezzone perché stava diventando molto pericoloso. Ecco, io capisco che ci siano dei monarchici sostegno appunto che esistano i monarchici, ma quello che invece è più insidioso è la sinistra europea che si fregia di antiimperialismo e quindi pensa che in nome dell'antiimperialismo debbano sostenere l'Iran e il regime, l'Iran come governo, come ha detto all'inizio. Quindi che in verità il regime va sostenuto perché sta combattendo contro gli Stati Uniti e contro l'imperialismo. Per cui appunto è molto difficile a volte unirsi, unirsi con la sinistra europea, alla quale bisogna far capire che non ci si può nascondere dietro la bandiera dell'antiimperialismo. E poi in Iran, all'interno dell'Iran, c'è anche questo movimento che si chiama Justice of Islam, che è in verità sostenuto dal governo e che si sta diffondendo molto all'interno, ottenendo sostegno anche all'interno della classe operaia, ma è in verità un movimento filo governativo. Another kind of opposition who built by the Islamic regime again, who supported by Islamic regime again, is about the Nehmad Muqawmat or resistance movement, which a part of leftists of Iran as well, inside of Iran, call themselves leftists, but they are supporting them. And again, under umbrella of the anti-imperialism, again, they are supporting Islamic regime, they are doing propaganda, and then it's a threat for our future that we are planning. So even in Kurdistan, five party politics of Kurdistan of Iran asked Trump and Israel to weapon them, make them ready to go and fight. And then they send it some of them. So you see that this nationalist group in Kurdistan also is a threat in front of the people's movement. Women life movement, working class movement, socialist movement. So the scenario of the Iran right now, with all those opposition and those groups who are supported by Iran or maybe by Israel and America, they so big, they are rich, they give you all the opportunity, but leftists is poor. Only they can rely on a working class people, women's life movement, and themselves. And that's a big struggle for all of us at the moment. Oh, si sente veramente niente. Quindi un'altra parte dell'opposizione interna al regime è il resistance movement, quindi il movimento di resistenza, che ha al suo interno anche una parte di sinistra, ma sono sempre uniti sotto l'ombrello dell'anti-imperialismo, e quindi sono parte della propaganda del regime e sono in verità costituiscono una minaccia. Am I right? I've understood right that even in Kurdistan there are some parties that support that ask Israel. I don't know. I think yes, they have been supported by Israel and America, actually by America. Okay, anche in Kurdistan ci sono partiti che sono stati sostenuti da Israele e dall'America. Quindi appunto è importantissimo invece che ci si unisca anche appunto a Donna Vita Libertà, che ci si unisca in una prospettiva socialista, perché si può contare solo sulla classe operaia per operare un cambiamento. And finally, I wanted to say that in this war that's starting, as I say, that there is no winner in between. Can you repeat? Islam because I want Islamic regime won't vanish. Unfortunately, it will be very, very dangerous dictator, militarism dictator after that, and it's coming back to the people. With the execution, with more prisoning, with fighting against people, and that's another bad situation that we are facing. So therefore, distance between that people get ready again and fight against the Islamic regime is not so clear. It depends on how much people can get strength and power again to stand up against the Islamic regime. All our hope is that we support this movement, all the movement, working class, women, young generation, all of them together, that they can stand up again. But in the right time that they choose, because we can't decide it for them that they are wounded. We are in Europe, sitting here in peace. But they must tell us that when is the time that they are standing again. Thank you. Quindi da ultimo vorrei dire che appunto il regime islamico non svanirà così, e che in verità appunto c'è una dittatura pericolosissima. Hanno ripreso a con le esecuzioni, sono aumentati, come si diceva, anche le incarcerazioni, quindi è una situazione difficilissima, e quindi bisogna lottare contro tutte queste cose, ma viene anche da chiedersi quanti hanno ancora la forza di farlo, ed è per questo che dobbiamo in tutti i modi sostenere i movimenti, le donne, i giovani, la classe operaia, ma sono loro a dover scegliere, non siamo noi in Europa seduti qui al caldo, sono loro che ci devono anche dire cosa fare. Buonasera, ciao. No, volevo riportare questa sensazione mia di, diciamo, di sgomento, diciamo, rispetto al vedere molte persone della diaspora rimaste probabilmente sconvolte dalla repressione della grossa partecipazione di massa delle rivolte avvenute tra dicembre e gennaio. Ho visto anche personalmente persone che conosco personalmente, magari prima, se prima le conoscevo come persone di sinistra o magari anche solo progressiste per una socialdemocrazia, diciamo, o socialiste nel senso più magari meno radicale, però comunque pro-curde, pro-palestinesi, a un certo punto su una grossa ondata emotiva relativa alle notizie che arrivavano rispetto a una repressione quanto mai pesante, feroce, iniziare poi a piano piano a muoversi verso posizioni filo-monarchiche. No? Loro dicono dobbiamo per forza concentrare gli sforzi verso questo, il figlio dello Shah, è l'unica persona che ci può rappresentare, è l'unico che ha autorevolezza, e pertanto abbandonare anche tutte le posizioni filo-palestinesi o filo-curde, ho visto quindi magari tornare anche un po' di sentimento magari anti-arabo e nazionalista. E quindi poi abbandonare un po' tutto questo e trovarsi alla fine schierati da quella parte lì, credo proprio su una sorta di disorientamento dovuto a una forte botta emotiva, diciamo. E quindi sì, adesso c'è bisogno che torni lo Shah, quindi ci traghetterà verso questa situazione di mezzo, poi ci sarà un grande referendum in cui si deciderà monarchia oppure repubblica. In tutto questo, l'essere a favore dell'intervento americano e sionista israeliano. Quindi gente che esulta perché stanno bombardando il tuo paese, la tua gente, la tua città, le tue strade, il posto dove vivi. E niente, volevo riportare questa sensazione qua che mi sconvolge. Cioè, io poi posso capire tutto, posso capire, abbiamo visto in molti casi nella storia, cioè qualsiasi nemico del mio nemico è un potenziale amico. Ok. Niente, no, questo è l'intervento che volevo portare, che si collegava poi a quello che diceva Said. Grazie. Good evening. Yes, I just wanted to tell you about a feeling that I've had. I mean, I was very upset seeing many people from the diaspora who were maybe also upset by seeing the repression of the rebellions that have taken place in 2025 and the beginning of 2026. I saw people that I had always known as people, left-wing people, even on the social democratic part, so let's say less radical, but who had always had pro-Kurds and pro-Palestinians position. And in the wake of the repression, after seeing the repression by the regime, they started to move more on the side of the monarchists, or monarchist position. So they really joined forces to support the Shah's son, and whom they recognized as the only authorities. And they gradually abandoned their pro-Palestinians or pro-Kurd positions. And also I felt some anti-Arab feeling, some nationalist feeling emerging. So I think this was very emotional on their side. They kept saying that they need the Shah, they need the son of the Shah to bridge the transition, and then there will be a referendum. And this brought them to support the US and the Zionists in Israel. And they kind of exulted because the US was throwing bombs on their city, on the place in which they had lived. So we have already seen this in history. Any enemy of my enemy is my friend, but still, it's impressive. In parte volevo dire quello che ha detto il ragazzo che mi ha preceduto. Comunque, io seguo un po', per quello che posso, quello che succede a Milano tra i persiani, ne conosco tanti, di frequento vado ai presidi e tutto. Mi stupisce che non ci sia Donna Vita Libertà qua stasera. E mi sono resa conto comunque che ci sono delle differenze. A me piace molto la vostra prospettiva e ho ascoltato il discorso di Alale. Mi sono venuti in mente gli anni 70 nostri. Cioè mi è venuto proprio... Ma mi si è aperto il cuore. Se fosse andata come volevamo sarebbe stato un mondo migliore. Peccato che avevamo ragione, ma abbiamo perso. E adesso quello che vedo che sta succedendo per l'Iran, che tra l'altro è complicatissimo anche perché il potere è stratificato in una maniera ancora più radicata di prima, perché c'è il clero, ci sono i pasdaran, hanno un sacco di soldi, per cui io mi domando se anche insorgesse tutto il popolo persiano, come ha tentato di fare ed è stato massacrato, perché non so se sono stati 3.000 o 30.000 gli ultimi morti, comunque a me è una cosa che solo sapere che ci sono le esecuzioni 5, 6, 10 ogni giorno è una cosa che proprio mi fa svagellare la ragione. Non capisco come mai il mondo non si muova. D'altra parte il mondo è questo. Cioè, il problema dell'imperialismo ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo anche noi. Una cosa che vedo tra i persiani della diaspora, quelli che sono fuori dall'Iran e che si affidano alle potenze straniere, anche le peggiori, è perché vedono il potere, vedono che questi hanno le armi, vedono che questi hanno i soldi. E quando gli dico, ma ti rendi conto che hanno bombardato una scuola con 160 bambine, quando, cioè, ti rendi conto che stanno distruggendo tutto, hanno distrutto anche il Golestan, l'istituto Pasteur, dove io da piccola andavo a fare le vaccinazioni, vi rendete conto di questo? Dicono, questo non importa, però intanto ci hanno ammazzato un sacco di Ayatollah e hanno ammazzato un sacco di Pasdaran. Il problema è che questi sono come la gramigna, crescono, crescono, crescono, e non solo crescono, ma io credo che sono anche molto, al di là delle apparenze, molto legati ai poteri stranieri. Per cui l'Iran è sempre stato lo stato canaglia, però ci hanno fatto affari tutti sempre con l'Iran, di nascosto. Oggi c'era lo sciopero dei giornali, per cui non si è visto, però c'è stata la visita in Italia di Reza Pahlavi, che sta facendo il tour in Europa. E quindi a me preoccupa moltissimo questo fatto, perché io ho visto che anche tra i persiani che ci sono qui, e soprattutto quelli che sono fatti strada, sono integrati, hanno ristoranti, hanno cose, hanno aziende, tutto, c'è questa nostalgia dello Shah, come se l'epoca dello Shah fosse stata un'epoca d'oro dell'Iran, perché si ricordano solamente che c'erano le ragazze in minigonna, che tutti potevano fare tutto. Io c'ero in Iran con lo Shah e c'era il terrore, era una cosa orribile. E questo figlio dello Shah che adesso si propone e si sta proponendo, e può darsi anche che riesca, non lo so, io spero di no. Tanto l'ha accolto Gasparri, quindi se l'accoglie Gasparri vuol dire che non c'è proprio così tanto da temere. Non... Però, sì, hanno fatto la foto vicino, uno più bello dell'altro erano. Capisci? Però tra questioni economiche, questioni belliche, io sento che... E tra l'altro il rapporto di tutti questi iraniani che sono... forse meno idealisti di noi, più realisti, ho paura che anche l'Iran, in un modo o nell'altro, finirà come noi, cioè vittima dell'imperialismo, prima che, magari prima ancora che riparta internet. Ecco, e questo è il mio timore. È il mio timore perché, vabbè, per me è la mia patria, l'Iran, ci sono quasi nata. E vedo comunque che anche quelli che non approvano quello che hanno fatto gli americani e gli israeliani, perché ce ne sono, dicono comunque, come si diceva prima, il nemico del mio nemico è mio amico, e gli iraniani sono abituati a morire e moriremo ancora in tanti fino a quando questa cosa non si sarà estirpata. Però non hanno fiducia in se stessi, e quello che io vi dico da quello che ho sentito stasera, per quanto quello che ha detto la compagna da Londra e quello che avete detto voi mi ha aperto proprio il cuore, perché ho ho detto sono come noi, il problema è che noi ci hanno sempre bastonato. Non mi mette così tanto, cioè sento che c'è ancora molta dispersione, c'è molta dispersione perché Baluci, curdi, sindacalisti, Donna Vita Libertà, che poi è più, credo, almeno a Milano, un po' più anarchica che comunista. Mi sembra un po' un minestrone che si deve organizzare ed è difficilissimo. E credo che, come in Italia, noi purtroppo abbiamo fallito e ci siamo ritrovati in sta monnezza, ho paura che se non vi organizzate alla svelta, lasciando perdere le differenze, sarà dura. E soprattutto, e soprattutto comunque, per fare la rivoluzione servono le armi. Grazie. O vi mettete d'accordo con l'esercito, o vi mettete d'accordo con l'esercito. So I just wanted to say that agree with what Said said. I follow what happens here in Italy. I go to rallies. I know many Iranians. I speak with them. And I wonder why woman life freedom is not here tonight. And I like your approach, Said, and I listened to Alale, and it made me think of our 1970s. It was heartwarming. If only we had won, but we lost. And the situation is in Iran is very complicated. Power is on many layers. So you have the clergy, you have the pasdaran, and they have much money. They killed lots of people, maybe 3,000 or 30,000, I don't know, only to know that they execute 5 or 6 person each day. Every day is really upsetting. So why aren't we here reacting? What can we do? And one thing I see in the diaspora is that many people in the diaspora are entrusting themselves to the worst Western powers. They see they have money, they see they have powers, but do they realize that they are... I tell them, do you realize that they have just thrown bombs on your school, on the Pasteur Institute, for example? Yes, they say, but they have also killed the Ayatollah and many Pasdaran. So this is how they grow. So Iran has always been a bad state, but everybody made business with Iran. Today there was a strike of Italian newspapers, but so many people don't know that today Reza Pahlavi has visited Italy, is on his EU tour, touring Europe, and also many people among the Iranian diaspora, people who have maybe settled here, who have been here for a long time, they have a kind of nostalgia for the Shah, as if under the Shah it was kind of a golden age when women could wear mini skirts. But I was in Iran during the Shah's rule, under the Shah's rule, and it was horrible. There was terror. And the son of the Shah, maybe it will also succeed, but anyways, it was welcomed today by Gasparri. Gasparri is an Italian fascist politician. And so they took a picture together. So I don't know if it's going to bring him luck. And anyway, it's a whole complex of finance and war. So maybe these Iranian people are less idealist, they are more realist than we are. They will end like us, victim of imperialism, even before internet comes back. So, I see also that there are many people who don't approve of the US and Israel, but Of course, as we said earlier, any enemy of my enemy is my friend. But many, and they say many people have died, many will have to die. But it's as if they didn't trust themselves. But I feel this, when I heard the comrade from London speaking, I said, well, they are like us, but we were defeated. So also these different groups, the Banushi, the Women, Life, Freedom, Kurds, and the trade unions, well, they are a bit dispersed. So we failed, so it's time for them to join forces, and then any revolution must take arms. Grazie. Volevo solo dire una cosa sui due interventi che ho sentito, perché anche noi ci siamo stupiti quando abbiamo sentito come mai da Donna Vita e Libertà siamo arrivati a portare bandiere Israele da parte di molti iraniani. Cioè, siamo stupiti come è successo tutta questa cosa. C'è una spiegazione, in realtà, cioè, il movimento Donna Vita e Libertà era un movimento molto molto progressista, non solo per l'Iran e Medio Oriente, anche per, diciamo, come un movimento politico, rivoluzionario, un movimento che ha le donne in prima linea, cioè libertà di donne anche per l'Europa, anche per l'Occidente. Quindi una cosa che noi, secondo me, non abbiamo visto, che Iran, come tutti i paesi, forse anche ancora più di molti paesi, specialmente europei, e sotto patriarcato, cioè noi non siamo liberati da un tratto dal patriarcato. Noi abbiamo sempre avuto una tradizione islamica e molto patriarcale, molto contro le donne, che vuole limitare le donne. Durante Donna Vita e Libertà ha preso la mano più alto, più forte, la parte progressista del popolo. È cominciato un movimento da Kurdistan, da resistenza per 2 o 3 giorni del popolo curdo, che ha fatto unire a rabbia di ciò che è successo a Mahsa Amini, ha unito Jina Amini, ha unito tutto il paese. È cominciato con le slogan progressiste, con tutte le attiviste delle donne, quelli di sinistra, sindacati subito unendo a questa manifestazione, quindi è diventato una manifestazione, avendo specialmente questo nome, è rimasto molto progressista. Ovviamente si sono uniti anche quelli che erano per patriarchia, cioè, diciamo anche i monarchici, anche la parte, diciamo, più maschilista, più misogeno anche del paese, si sono uniti perché anche loro erano arrabbiati col governo. Specialmente qua in Europa, cioè anche noi abbiamo pensato, caspita, società iraniana molto cambiato, tutti sono diventati pro le donne. Invece non era così. Anche loro esistevano dentro le nostre manifestazioni, ma si vedeva che loro volevano, cioè il figlio dello Shah sin dall'inizio ha cominciato a dire, a portare lo slogan Mard Mihan Abadi a fianco di Donna Vita e Libertà, che significa uomo, patria, sviluppo. Un slogan proprio fascista, lo conoscete molto bene, mi sa. Esatto, cioè, per voi era così, per noi invece, cioè, è la loro propaganda. Quella parte del popolo iraniano noi li abbiamo trascurato, pensavamo che non esistono più, sono finiti tutti, sono solo i mulla. Invece loro esistevano e con noi sono usciti nelle piazze urlando di una vita e libertà, a volte dicevano uomo patrio, uomo sviluppo. Sì, provavano perché era lo Shah che lo promuoveva di dire questa cosa, invece noi sempre abbiamo vietato, cioè abbiamo detto cosa c'entra con Donna Vita e Libertà, cosa c'entra uomo, patria, sviluppo, un slogan fascista proprio, è per patriarcato secondo noi e ovviamente anche secondo voi. Quindi cioè, loro esistevano, solo che dopo questa manifestazione loro sono usciti, cioè dopo questa onda, dopo Donna Vita e Libertà, durante anche Donna Vita e Libertà, loro secondo me si sentivano soffocati, si sentivano non espressi abbastanza, erano arrabbiati, non sono col governo, anche con noi, con attiviste delle donne, con quelli di sinistra, perché vedevano che noi di sinistra abbiamo, cioè, stiamo organizzando tutte le piazze, non solo a Milano, in tutta Europa, Stati Uniti, dappertutto, anche dentro Iran. Erano arrabbiati. E poi con tante propaganda da parte di Israele, TV israeliane, cioè, che è una cosa nuova, cioè una cosa che è cominciato da 10 anni, investendo sulle TV persiane che fanno vedere il tempo dello Shah come un tempo d'oro, da 10 anni frutto di questo, la rabbia che era su di noi, su Donna Vita e Libertà, ha causato la parte, diciamo, tradizionale del paese a uscire. Quindi questo non è detto che sono le stesse persone che erano dentro Donna Vita e Libertà. Quelle che vedete in piazza, alcuni di loro sì, forse perché erano lì, ma non si sentivano molto Donna Vita e Libertà, si sentivano più Uomo Patrio Sviluppo. E ecco, quindi cioè, noi anche come in Italia, come tutti i paesi, abbiamo destra e sinistra. Questi sono, cioè, il Reza Pahlavi è il leader di estrema destra iraniana e con il programma di Israele sta diventando come quel leader, quindi abbiamo anche noi come in Italia un destra estrema, anche destra molto forte, come tutto il mondo, che purtroppo anche sta crescendo lì. Quindi io lo vedo così, lo spiego così, grazie. Traduce, perché sennò... Only one thing that I'd like to add. So why have we seen people from Women Like Freedom with Israeli flags, for example, or many Iranian people waving Israeli flags? Well, because Women Like Freedom began as very progressive. Progressive not only for Iran, but also for the West. And what we were not able to see is that, well, Iran is under patriarchy. So we have always had a very strong Islamic tradition, patriarchal tradition that has very much limited women's freedom. And so Women Like Freedom was emerged as a very progressive part of the population. They rallied, they expressed their rage after Mahsa Amini's execution, and they began with their slogans, and they were joined by many people. But it was also joined by some people who were actually in favor of patriarchy, of the monarchy, and so that were just against the government, so especially in Europe. So I saw that some people joined Women Like Freedom rallies with another slogan that is Men Homeland Development, okay, which is a fascist slogan. So they wanted to say, we exist. We exist, and but they are actually fascist. So it is how they came to, in a way, infect the Women Like Freedom movement. They kind of felt suffocated, and they felt they could finally come out. And they also found support in Israeli television, who has hugely invested in televisions in Iran, television broadcast. They have, you know, crafted a narrative of the Shah as a golden age, but these people are not from Women Like Freedom. So it's the same as in Italy. We have an extreme right and an extreme left, and Reza Pahlavi, the son of the Shah, is extreme left, right, the leader of the extreme right. Alale, did you want to? Yes. Thank you so much. I didn't see the face of my comrade that she were talking. Thank you for her talk and then remind us about the past many years ago. Women Like Freedom is a spectrum. The movement is like a spectrum. There is from... Sorry, we can't hear very well. Can you... You said... Women Like Freedom is a... Yeah. Women Like Freedom is like... Maybe Women Like Freedom movement is a spectrum. Okay. So there is from far right to the left side. But the whole movement at the time, many, many people say that this looks like a very reactionary radical and secular leftist movement, which it was really good, many people involved. But do you know, because I'm from Kurdistan, I take this example from this Kurdistan, do you know that even women life freedom was so active in Kurdistan, even men dance around the girls when they burn the hijab, but at the same time, it was so many honor killing young girls in Kurdistan, and we were campaigning at the same time that why people get crazy and killing their wives, their daughters, their partners, all over. And honor killing increased in Iran. And the reason was that the women got the power talk, and the men-dominated society couldn't accept it, this situation. So this is another struggle. So you said that I couldn't, because I can't hear very well. So you said that you are from Kurdistan, and there women life freedom was very active, okay? And they burned hijabs? Yes, yeah. Because if you remember the burning hijab starting from Kurdistan in Sakhis, when they bring Masajina Amini back to the cemetery. And then after that, it's starting that all over the Iran, women starting taking hijab, breaking the gender apartheid, dancing together side by side by men, and then the demonstrations started. But at the same time, in this situation, and after that, the number of honor killing young girls increased, and it was devastated time. And still honor killing is existing in a high level numbers in all over the Iran, not just Kurdistan. So what I am saying that this movement has a capacity for a period of time. After that, it could be divided between the monarchies, the dream for a young generation, just only thinking about the hijab, or for the lefties, the feminists, socialist group, that they are thinking deeper, thinking about the changing the system, thinking about the take out the Sharia law of their life, and thinking about the revolutionary change. So we remember that at the same time that we were fighting for women's rights, the monarchy celebrity of them in America dancing with the pictures of Mahsa Jina Amini, and making a show. So everybody used women life freedom. Everybody followed the movement, and everybody were in the movement. So then after that, actually the women's life freedom divided. It's not united. It's women life freedom, like any other campaign or movement, are classified from a working class to the right side, like a monarchy. And another thing is that... Just a second, sorry, because sorry, yes, it's very long and really can't hear very well. Sorry. Yes. Quindi Donna Vita Libertà è in realtà da considerarsi come uno spettro. È uno spettro che va da destra a sinistra, un movimento intero che, come dire, ha al suo interno sia componenti laiche di sinistra. E io sono curda, e anche lì Donna Vita Libertà era molto attiva. È lì che hanno bruciato l'hijab, quando poi è stato riportato il corpo di Mahsa Amini. È tutto iniziato in Kurdistan, le donne che hanno bruciato l'hijab, che si sono messe a ballare, e al contempo però sono aumentate anche è aumentato il numero di ragazze uccise. Quindi è un movimento che ha avuto una grande forza, una grande capacità, una grande visibilità, ma che dopo si è diviso al suo interno. Cioè ci sono le giovani che, appunto, con questo gesto di togliersi l'hijab, c'è una componente socialista, c'è una componente femminista, ma c'è anche una componente romantica, scusate, monarchica. Appunto, è una diciamo che Donna Vita Libertà poi è diventata una sigla che è stata appropriata da tutti e a un certo punto, e dopo il movimento si è diviso, come spesso succede nei movimenti classici o nelle campagne, diciamo, politiche che vengono fatte. Also, I wanted to add it, like any other movement and campaign, each of them have a limited time. After that, maybe they don't work the way that from the beginning that they work. We probably next time it will be another movement, another campaign that people starting and getting a new name. However, I wanted to add it here as well. When it was the Nazism, Hitler attacked all the Jewish people, so many people, millions of people in Germany also admire Hitler. So when a large people of admire one stupid leader, it doesn't mean that the issue is right, the issue is good, the issue has value. No, it's the same situation with the diaspora in Europe for the monarchy side. Those people who are behind the monarchy today doesn't mean that they are right, that that's what exactly people wanted. Diaspora people wanted, or maybe a part of people in Iran inside as well, following monarchy. I don't deny it. I am sure that they have at least 8% of the population that maybe they dream about the Shah type. But the majority of people wanted a new thing. They are not stupid. Once they take it Shah, then take it back again. Is there any better alternative for people? So therefore, this diaspora in Europe have been supported a lot by social media, by the monarchies themselves. Plus, a part of this diaspora, do you know who they are? When many Iranian people wanted to go back to Iran, they needed to elect in every 4 years of the Islamic regime. Otherwise, they have no right to go back. So therefore, they are going for signing in ambassador or embassy. And then a part of them wrongly stay with monarchy because they believe that it's a harmless alternative, that they can go back, come back from Iran, going and to holiday, seeing family, doing the medication for themselves, and then coming back peacefully here. A part of those population are not because of the monarchy, because they like Reza Pahlavi, because of their own business, because they wanted to save relationship with the family in Iran. Not all of them are monarchy. At least in London, I can guarantee that half of those people are people that they are going just because they don't see any stronger alternative and secure for their own level of life and communication with the Islamic regime, with going back and come. So therefore, at any level, maybe in future it will change. One of the colleague of speakers say that we lefties is very little. Lefties has no leftist social media. Leftist is no money. Therefore, is very little. And inside Iran is forbidden to talk as a leftist. So that's why we are in such a weak situation. Thank you. Come gli altri movimenti, anche Donna Vita Libertà è un movimento che ha avuto, diciamo, un tempo limitato, che appunto, e dopo un po' di tempo questi movimenti non funzionano più. Può essere anche che la prossima volta tutto parta da un altro movimento, da un'altra campagna. Comunque, anche quando appunto con la appunto lo sterminio degli ebrei da parte del nazismo, Hitler aveva tantissimi sostenitori in Germania, ma questo non vuol dire che sia una buona cosa. Lo stesso vale per la diaspora. Non è detto appunto che la maggioranza, si dice, vuole lo Shah, ma molti si chiedono: c'è un'alternativa migliore? In più, appunto, la diaspora, una certa parte della diaspora ha avuto molto sostegno economico o nei social media, e quindi appunto è anche questo che conta. Then you said something about going back to Iran after 4 years, which I didn't really get. You said so that sì. Ha detto che per poter tornare in Iran devono votare nelle ambasciate. Ok. Sì, grazie. Ok, quindi per votare in Iran devono andare nelle ambasciate, se no non possono votare e tornare, scusate, in Iran. E appunto parte di queste persone pensa in modo sbagliato che appunto se lo Shah sia l'alternativa più innocua, ma non è che alla popolazione piaccia. Molte persone vogliono solo tornare per rivedere la famiglia, magari entrare e uscire. Qui a Londra, per esempio, ci sono molte di queste persone che non vedono alternativa a nessun livello. E appunto poi si è detto, qualcuno ha detto che in Iran c'è poca sinistra, ma c'è comunque una parte. Volevo un attimo tornare al punto che ha detto il compagno, che è triste veramente vedere la gente che balla perché il paese è sotto bombardamento. È veramente triste, ma c'è un motivo. Comunque ci sono i media che sono stati pagati con... sono stati pagati da Pahlavi / Israele, cioè sono la stessa cosa, cioè Pahlavi è praticamente pagato, cioè è sostenuto da Israele. Comunque per più di 10 anni ci sono questi media che stanno fabbricando una nostalgia, una falsa nostalgia per un passato non esistente, per dare un riconoscimento, per dare una legittimità a questa persona. Quindi c'è stato questo piano per un po' di tempo, non è una questione di adesso. E con sempre questi media, durante le proteste di gennaio, hanno continuato a fare questa fabbricazione di realtà. I primi giorni delle proteste, questi media hanno, come si dice? Hanno creato una falsa voce sulle immagini della proteste, cioè sui video delle proteste, con lo slogan Pro Shah. Cioè, era incredibile, io non ci potevo credere che... quando ho visto i primi video delle proteste, io veramente ero scioccato che la gente potesse dire questi slogan. Però poi dopo ho visto, cioè sono venuti fuori video originali che stavano facendo slogan più sulle questioni economiche. Cioè questi media hanno fabbricato questa, diciamo tra virgolette, legittimità per Pahlavi, che poi ha trascinato dietro altre persone indecise o che volevano solo un cambiamento. E alla fine funziona così: accetti una cosa piccola per poi arrivare a un risultato, poi dopo devi accettare un'altra cosa, poi dopo accetti un'altra cosa, alla fine vedi che... stai ballando per i bombardamenti. Cioè, purtroppo funziona così. Da una parte c'è stato questo trauma davvero terribile, che sono stati massacri da parte del regime, poi dall'altra parte la falsa speranza che hanno dato i media pro Pahlavi, pro Israele. Quindi questa combinazione è una combinazione letale, diciamo. Yes, I want to go back to what the comrade was just asking about people celebrating in the streets, because dancing in the street, because the country was being bombed. Because these are people who are I mean, they were paid by Israel and Pahlavi for more than 10 years. The media have fabricated a false nostalgia for a past that has actually never existed, and they did this to legitimate Pahlavi. So it's been going on for some time now, and the media have been doing this all throughout the protests. And during the first day, they created a fake voice, like a voiceover on the videos. This voice was, you know, with pro-Shah slogans. And I was shocked. And then I saw the original videos. And they fabricated this. It's really a fabrication of legitimacy for Pahlavi, which ended up, you know, involving people who didn't know actually what they wanted. Maybe they just wanted change. So you start by accepting one small thing after the other, and then you end up dancing and celebrating because your city is being bombed. So, and this is false hope. Allora, interessante, perché io volevo fare un intervento a risposta di lei e poi il compagno ha fatto, quindi io continuo. Volevo dire che... Adesso si sente? Volevo dire che sul suo commento di come una popolazione può celebrare la guerra, può celebrare bombardamento sul, proprio sulla sua terra, io direi che magari lo mettiamo anche per complicare un po' la questione, lo mettiamo in qualche modo dentro un'ottica storica, e non in questo caso, io non dico è storia dell'Iran, ma è storia di altrove, di altri luoghi che hanno vissuto la guerra in condizioni di contraddizioni e tensioni molto alti, fra cui Italia. E io vi dico un po' che quando c'era la guerra, alcuni dei miei amici italiani di sinistra, che si definiscono di sinistra, anche sinistra radicale, alcuni hanno nonne e nonni partigiani, mi hanno chiamato e mi hanno detto proprio, non erano per questa dicotomia, e mi hanno raccontato un po' delle storie che conoscono, che capisco che sono storie storte, storie incomplete, ma dicevano che alla fine anche noi siamo liberati da bombardamento americano. E c'è una parte, sappiamo che è una storia incompleta, ma sta dicendo qualcosa che secondo me è meglio che noi lo guardiamo per capire più psicologia di una massa o di diverse parti di una popolazione durante la storia, quando sta vivendo le condizioni proprio di contraddizioni molto alti e molto intensi. E loro, io ho sentito questo da diverse persone italiane di sinistra, che mi dicevano anche noi siamo liberati alla fine dal fascismo, siamo liberati da bombardamento americano. Ma poi un pezzo che per me era un po' mi faceva, per me era non così facile sentire, che mi sentivo che alcuni vantavano anche su questa cosa, che ok, noi abbiamo avuto le bombe da cielo, ma visto che per cambiare qualcosa servono truppe, noi avevamo i partigiani sulla terra, voi avete la resistenza armata in qualche modo. Ma si capisce, e questo non è solo neanche la storia Italia, c'è una storia simile in Germania, di sicuro ci sono storie simili della popolazione che forse in qualche modo si sente felice o ricorda una storia storta, ma di felicità di essere bombardato. E dico questo per complicare la questione, che questa situazione nell'Iran non è una situazione isolata, o della reazione di gente non è una situazione isolata e non è unica. C'è una storia. Ho perso purtroppo una parte. So I wanted just to say something about the question that arose earlier. about how can you celebrate. Well, I have some friends here in Italy. Halale, I missed one part, unfortunately. So, and when there was the war, during the Second World War, so some of these friends that I have grandparents who fought in the war as partisans, but they said, well, even Italy has been freed by US bombs in a way. Of course, this is an incomplete story, but we should take it into consideration. We should also focus on the contradictions. These friends say also Italy was liberated by bombs, by American bombs. So, of course, we had the partisans, you have the armed resistance, but I think that even in Germany there was a resistance, and even in Germany there are people who paradoxically remember the happiness of being boomed. So I just wanted to complicate the matter a little bit. Allora, scusate, siamo già alle 11:40, tra un po' ci sono problemi di mezzi. Chiudiamo con una brevissima conclusione, perché sennò non riusciamo, la gente sta già andando. Okay, so I think it's very late here, so we also have issues with public transportation, so I think we are actually ending this talk. Thank you so much. Thank you. Allora chiudiamo ringraziando chi è intervenuto, e in particolare la compagnia Halale da Londra, e diciamo questo: dobbiamo impegnarci per dare il massimo sostegno alla lotta del proletariato e delle giovani e dei giovani iraniani, che di cui non abbiamo notizie in questi giorni, che stanno subendo senz'altro tutta la persecuzione di cui è capace il regime, ma che hanno dato una lezione e hanno dimostrato la forza della resistenza e della lotta del proletariato. Quello che appare sempre più forte è che in un importante paese del Medio Oriente abbiamo avuto una lotta proletaria unita a una lotta femminile che ha fatto grandi passi avanti e che probabilmente ne farà altri, quale che sia l'esito di questa guerra. Perché? Perché è così grande l'odio per i padroni dell'Iran, per la borghesia militare teocratica, che non può che esprimersi in nuove rivolte. Il problema è che queste rivolte diventino alternativa di potere, cosa di cui abbiamo cominciato a discutere stasera, e secondo me è stato molto importante. Di solito si vede il potere nelle mani della borghesia. Scusami. So I want to conclude by thanking all of those who intervened tonight, and by thanking Comrade Halale from London. And also, what we must do is that we have to support the proletariat in Iran, young people in Iran. We have no news in these days about them. We don't know about them now in these days, but they are being violently oppressed by the regime. But we have to say that they gave a lesson, and they showed us the power of the struggle and of protest. So in one of the most important country in the Middle East, the proletariat and women have taken great steps forward. So I think so, and they showed, they voiced their hatred against the masters and against the liberal and theocratic regime, and this is why they rebelled, and the thing that has to come out of that is to form a power alternative, and that's what we've started discussing tonight. termino dicendo che quello che avviene in Iran può essere un grande passo avanti per tutto il Medio Oriente, perché la situazione in Turchia, che è un paese altrettanto importante dell'Iran, da un punto di vista oggettivo dei rapporti di classe, è analoga. Noi abbiamo avuto, i turchi hanno avuto, un impoverimento, il proletariato turco, spaventoso. C'è un'inflazione simile a quella iraniana, del 70-80% all'anno. C'è una situazione di sfruttamento bestiale. E penso che quello che hanno fatto gli operai iraniani può essere un esempio anche per i turchi. E quello che succederà in Medio Oriente è decisivo per la nostra battaglia qui in Italia. So I just want to conclude by saying that what has happened in Iran is very, very important for the whole of the Middle East. Objectively, we've seen that, for example, in Turkey, there's a situation that is very similar. So in terms of relationship between the different social classes and in terms of impoverishment, there's a rate of inflation bordering on 70-80% in Turkey as well. The working class has been brutally exploited. So I think that the workers of Iran have set an example for Turk. And the Middle East, what happens in the Middle East is also crucial for our struggle here. Many thanks.